le piene. Tipo il tipo della tipa quando il mese che non viene. Fra te, sembrando il mongolfiere. Fai te, la gente crede in un dio che ci ha sputati. Sto presepe, se non libro di preghiere. Spezzo colpi di macete, catene di Sant'Antonio. Attendo come l'itfine, mangi sushi col polone. Suscito clamore, basta il calore di una donna. Tanto se mi fa le corna non posso cavarne a fuori. D'altro che lavoro, sto ancora sotto con gli esami. In più ci tolgo sti integrali mentre sogno Malibu. Mali butto giù, come i tori gli integralisti. Tragintele interessate ad oliare sti meccanismi. E all'Armageddon, interi stati giocano al macello. Proprio sempre sul bagliato, c'ho anche tutti e non prego. Beh, potrebbe andare meglio, ogni volta che mi sveglio senti il desiderio di 11 minuti, come Coelho. Palle piene, pure o non un con qualcuno scorre, fila liscio come l'olio, manco se ci sputo, do un passo e chiudo. Passo l'azione, accendi quelle casse, non resto muto, ne abbasso la testa tipo le tasse. Genitali, votati all'autodistruzione, vado nel pallone, prendo a calci la mia vita. Sapere che il calciatore si fa una vita prendendo a calci un pallone, beh mi sta sui genitali. Cazzo ti dico dello studio, mi spacco la testa per fare il fisico, ma è una merda. Perché poi vedo studi aperti e concludo che dovevo fare il fisico, sì, in palestra. Scime sulla schiena, figlie di stagione urbana. Verità insabbiate, ma non c'entra gara. Il mondo dice che mi ama, molta sì, gabbana. Ma nel modo di dolce quando botta gabbana. Preferisco il devasto, è un'utopia vivere bene. Troppe cose in testa, basso il volume dell'impianto. Alzo quello del bicchiere, mi intesisco, prendo l'acqua del bere. Tanto non c'è un cazzo da vedere, come un cieco dinanzi ad un muro bianco che sta per cadere. Dietro la parete, apparenze pure clacson. Nel buco nello zone, il mondo prossimo al collasso. Allora, fotto un cazzo della corona d'alloro. Conta solo essere prima in questa corsa all'oro. Come corona, non è Daytona, ma girando a paura. Nei contanti contro il taglio come la lama di uno. Questa è una montatura, come l'occhiale contro la lobotomia. Scelgo una chirurgia sperimentale ad aumentare l'apertura mentale. Resta volare via, ma mi manca l'apertura alare. Azione, non aspetta fondato.